Tutti siamo rimasti scioccati nel vedere appunto il casco rotolare. E detto questo, dobbiamo anche dire che non solo normale, ma è doveroso che questo accada. Se il casco non si staccasse, causerebbe lesioni molto molto gravi alla testa e al collo del pilota, fino ad arrivare addirittura in alcuni casi a staccargli la testa. Quindi, cioè, su questo dobbiamo essere molto chiari. Oltre un certo livello il casco deve, il cinghiolo di ritenuta deve staccarsi, così come in caso di caduta la calotta deve rompersi, deve delaminarsi, perché proprio nel far ciò assorbe l'energia dell'urto. Naturalmente nel caso del tragico incidente di Markol l'energia generata da due urti di seguito di quell'entità è talmente grande che penso nessun tipo di casco di protezione avrebbe potuto svolgere una funzione utile.